every night for last week. We have more or less four or five alarms. Ogni notte durante l'ultima settimana scatta l'allarme. Accade anche 4-5 volte per notte e allora tutte le famiglie corrono nei rifugi. Durante la giornata cerchiamo di lavorare, ma è molto difficile. I bambini non stanno andando a scuola, rimangono a casa. La situazione è pessima, ma non è una novità, perché ci conviviamo da 10 anni. Ha paura per la sua vita? No, I don't afraid at all. No, ci sono armi che ci proteggono, ma vorrei che la situazione cambiasse e potessimo vivere in pace. È impossibile vivere in questa maniera. Chiediamo semplicemente al nostro esercito e al nostro governo di permettere che viviamo in pace.